Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, Personal Best, il corso di corsa alla radio. Compagna di viaggio qui al mio fianco, Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Andiamo con te con i nostri ospiti alla scoperta di tutte le sfaccettature, le curiosità legate al mondo della corsa, dalla scelta delle scarpe, all'allenamento, dal recupero, dagli infortuni alla resilienza. Nella fattispecie quest'oggi andiamo con Francesca De Riu, biologa e nutrizionista nonché triatleta, alla scoperta di un po' di curiosità legate al mondo dell'alimentazione riconducibili in qualche modo alla corsa. Benvenuta Francesca. Ciao, buongiorno a tutti. Prima però facciamo un piccolo salto all'indietro con te Ivana, che sei reduce da un'impresa che ha dell'incredibile. A giugno infatti hai corso 340 km intorno al Monte Bianco. Sì, sono appena tornata il 4 giugno da questa corsa non stop intorno al Monte Bianco. Sono partita appunto da Chamonix il 31 maggio e dopo 340 km facendo il giro di tutti i passi sono riuscita appunto a portare a termine questa avventura, questa impresa in 83 ore, quindi insomma una cosa che sembrava abbastanza impossibile, un sogno quasi realizzabile, e soprattutto perché l'ho fatto non stop quindi senza dormire molto, perché il massimo che facevano 20 minuti questi microsonnellini, e mangiando circa ogni ora 50 minuti. Aiuto! Questo, Ivana e Francesca, visto che sono qui tra voi due donne, in qualche modo ci ricollega a un fatto storico del 1967, alla prima donna che ha corso la distanza della maratona a Boston. Katrin Schweitzer, che si era iscritta alla maratona di Boston di nascosto, praticamente aveva messo il suo nome puntato in modo tale che non si sapesse che era una donna, però durante la maratona l'avevano scoperta, cioè avevano visto che c'era una donna che correva, avevano cercato di allontanarla spintonandola. Lei aveva portato a termine la sua impresa, perché di un'impresa si trattava, e ha aperto un po' le porte a tutte le donne alla maratona, tant'è vero che poi nel 1971 le donne sono state ammesse per la prima volta a partecipare alla maratona di New York, e poi via via l'anno dopo quella di Boston e così via. Pensava che non fosse possibile per una donna concludere, diciamo, una maratona. Sì, si pensava. Un pregiudizio. Più che altro. Sicuramente per pregiudizi, anche perché comunque non c'erano dati scientifici a disposizione. Adesso ci sono. Ci sono anche perché sono tante le atlete donne che corrono, e corrono anche su lunghe e lunghissime distanze. E ci sono dati legati al fatto di un'alimentazione differente tra uomo e donna a livello sportivo? Le differenze sono sicuramente ormonali. Ci dicono che le donne, noi donne, siamo più propense a utilizzare i grassi a livello muscolare, a livello energetico, durante l'attività fisica, che è fondamentale durante un'attività di resistenza. Durante una maratona, per esempio, gli atleti ben allenati utilizzano una miscela di zuccheri e grassi. Ci si allena anche a questo, quindi gli allenamenti a digiuno servono proprio a questo. Però noi donne siamo avvantaggiate. Svantaggiate però perché utilizziamo meno gli zuccheri, invece gli zuccheri sono fondamentali, soprattutto quelli che assorbiamo dall'esterno, quindi cibi o integratori. E possiamo allenarci a assorbire più zuccheri, quindi? Possiamo allenarci, questa è una cosa molto nuova, possiamo allenare il nostro intestino a assorbire più zuccheri. È stato visto che un'alimentazione ricca di carboidrati determina proprio un aumento dell'espressione di alcune molecole che non sono altro che trasportatori di zuccheri a livello intestinale, e un'alimentazione ricca di carboidrati fa sì che il nostro intestino si abitua ad assorbirli, e quindi i nostri muscoli riescono a utilizzarli in maniera efficiente. Questo ci fa pensare anche che una dieta a basso contenuto di carboidrati, quindi chi segue diete low carb, perché specialmente chi ha paura di ingrassare, no? Okay. Tra i runner sono tanti quelli che seguono diete low carb sbagliando, però devono capire che poi quando arrivano in gara non riescono a assorbire. Hanno necessità di quegli zuccheri. In realtà. Esattamente, potrebbero avere disturbi gastrointestinali perché non hanno la capacità che avrebbero. Non sono abituati ad utilizzare. Esattamente. Questo può essere uno degli errori legati all'alimentazione. Questo può essere assolutamente uno degli errori, quindi si tende per paura di prendere peso a limitare molto i carboidrati. Sicuramente limitare i carboidrati è una strategia per la riduzione del peso, ma non bisogna farlo sicuramente sotto gara o nei periodi di intenso allenamento, quindi si può fare nei periodi di off season, per esempio, di scarico. Okay. Se si deve perdere qualche chilo. Perché c'è anche dell'allenamento fatto invece per sfruttare al meglio la parte, lasciando i carboidrati, e la parte dei grassi, no? C'è quel famoso allenamento a stomaco vuoto. Esatto, gli allenamenti a digiuno, che ci obbligano, non avendo scorte di glicogeno, quindi esauriamo le scorte di glicogeno, e ci obbligano ad andare a cercare noi i grassi. Quindi piano piano questo si allena e diventiamo sempre più efficienti a utilizzarli. Ovviamente non tutti gli allenamenti sono fatti apposta per essere in questo modo, no? Ivana lo sa bene. Sì, ricordo per allenarmi appunto per queste imprese e anche per le imprese precedenti, io facevo degli allenamenti, sicuramente un allenamento a settimana era digiuno e ovviamente non era un allenamento di più di un'ora, un'ora e un quarto, perché comunque sennò sarebbe stata troppa fatica e quindi normalmente era lento e più una parte magari in progressione alla fine. E io comunque ho notato dei grandi progressi, cioè come allenamento, come poi le sensazioni dopo un paio di mesi che mi allenavo in questo modo. Può essere anche una cosa legata anche al periodo stagionale in questo momento. Molti scelgono magari di andare a correre la mattina presto e si trovano nella condizione di dover scegliere se uscire a stomaco pieno o a stomaco vuoto, fare colazione prima o fare colazione dopo. Sì, esatto, esattamente, dipende dall'allenamento. Sicuramente questo periodo dell'anno è meglio, perché poi fa troppo caldo, andare a correre la mattina presto, però non sempre è preferibile andare a digiuno. Si può mangiare qualcosa prima, anche un semplice gel oppure due fette biscottate con la marmellata, oppure scegliere di fare l'allenamento a digiuno. Ma quello che è più importante è ciò che mangiamo dopo per recuperare, soprattutto se si è andati a digiuno. Quindi carboidrati e proteine nelle giuste proporzioni per favorire lo stoccaggio di nuovo degli zuccheri a livello muscolare e la ristrutturazione più muscolare che è data dalle proteine e dagli aminoacidi. Ok, tutto deve essere poi valutato in base alla tipologia di allenamento che andremo a fare. Insomma. Alla tipologia di allenamento va valutato anche da persona a persona, quindi non tutti abbiamo gli stessi gusti, questo va sempre considerato, e le stesse esigenze sia in termini di obiettivi di gara sia di stile di vita e così via. Grazie a Francesca De Riu. Grazie a voi, ciao a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.